Pochi minuti fa mi è stato inviato un documento, un'immagine di un documento, che è un telegramma che è stato inviato da Mussolini al signor Italo Balbo. Sapete chi era Balbo? Era Balbo? Viotta. Chi? Il Balbo era centrale di Roma. Balbo era quello che era il governatore della Libia, quando la Libia era una colonia italiana, durante il periodo, per un lungo periodo. E questo è stato inviato nel 1939, riguarda le leggi razziali. È un ordine da parte di Mussolini, firmato da Mussolini, in cui gli dice di applicare le leggi razziali agli ebrei in Libia, così come sono applicate in Italia. Poi conclude il telegramma con le seguenti parole: ti autorizzo quindi all'applicazione delle leggi razziali, nel senso di cui sopra, ricordandoti che gli ebrei sembrano, ma non sono mai definitivamente morti. Molto interessante che aggiunge questa frase. Allora, cosa c'entra con stasera? Perché stasera noi ci troviamo questa settimana nella Parashah di Balak. Balak era un altro Mussolini, e cioè un altro Sonei Israel, odiatore del popolo ebraico, che aveva interpellato Bilam. Bilam era un profeta, anche lui un grande Sonei Israel, ora vedremo un po' più in maniera un po' più approfonditamente. Ma prima di entrare nel dettaglio, volevo far presente che la parashah di questa settimana si chiama Balak. In breve, la storia di Balak è che il popolo ebraico si trovava già quasi pronto ad entrare in Eretz Israel. Nella parashah precedente abbiamo letto di alcune conquiste e battaglie importanti che hanno fatto Bnei Israel contro delle grandi forze della zona. C'erano due re molto importanti, Sihon e Og, e gli ebrei erano vittoriosi in quelle campagne. Ora, per entrare in Israele stessa, dovevano passare solamente attraverso un popolo abbastanza debole e piccolo, con cui non avevano alcun interesse di combattere, dovevano solo fare un passaggio attraverso il territorio per giungere in quella che poi diventa Eretz Israel. E quella sarebbe la terra di Moab, i Moabiti. Il re dei Moabiti si chiamava Balak. E di nuovo, nonostante gli ebrei non avessero nessun interesse a combattere con lui, lui ha visto quello che è successo ai più potenti re della zona, come dicevo, Sihon e Og, e si è messo paura e ha detto: dobbiamo fare qualcosa per fermare queste persone, eccetera. Ora, invece di usare le armi convenzionali, Balak va ad informarsi cosa posso fare contro questo popolo e contro il loro leader Mosè. Perché se Sihon e Og non sono riusciti a tenerli a bada e sono stati sconfitti, come posso pensare io di fare qualcosa? Allora. Beh, lui riconosce, no, soltanto una cosa, che a differenza degli altri, lui riconosce la grandezza del popolo ebraico, la grandezza di Dio, cioè sa che il popolo ebraico è indistruttibile perché ha Dio. Quindi Beh, capisce? ha paura. Quindi no. Aspetta, aspetta, Ruben, aspetta un attimo. Scusa. Scusami te. Vediamolo prima da un punto di vista pratico. Lui Infatti. dice: qui c'è un gruppo che ha sconfitto Sihon e Og, che sono i più potenti della zona. Come posso pensare io a mettermi davanti a loro? Con lo stesso sistema convenzionale che hanno provato loro? Ovviamente non ha senso. Allora vado a cercare di capire. Dove vado a cercare di capire? Dico: qual è la forza di questa persona? Arrivo a quello che dicevi tu. Qual è la forza di Moshe Rabbeinu? Dove vado ad informarmi? vado ad informarmi presso un altro popolino vicino che è Midian. Perché vado da Midian? Se vi ricordate, Moshe Rabbeinu, dopo quella famosa storia che ha ucciso l'egiziano, è andato a rifugiarsi da un'altra parte, è scappato dall'Egitto, il faraone voleva la sua testa. Dove è andato? La Torah dice, è andato nella Parashah di Shemot, all'inizio della storia di Moshe, è andato a rifugiarsi a Midian. Quanto tempo si è insediato a Midian, Moshe Rabbeinu? Per quanto tempo? Per tanti anni. Per 40 anni. Solo dopo 40 anni che Moshe era a Midian, aveva fatto la famiglia, eccetera, solo a quel punto gli era stato detto, vai, il roveto ardente, no? Torna in Egitto, eccetera, eccetera, parla col faraone, parla con gli ebrei e così via. Quindi Moshe era di casa a Midian. E Balak interpellò i grandi di Midian e disse loro, qual è la forza di questa persona? Loro gli dissero, la sua forza sta nella sua bocca. Cosa significa la sua forza sta nella sua bocca? Il Signore ascolta le sue tefilot. Kadosh Baruch Hu ascolta le sue richieste. Esaudisce le sue richieste. Allora Balak, davanti a questa informazione, si dice, allora va combattuto con la bocca, in qualche maniera. La fortuna di Balak è che a Midian, quindi in questo luogo vicino a Moab, c'era Bilam. Bilam era un grande profeta, era un idolatra, era un pagano, ma era un profeta, un vero profeta. E ognuno chiederà come fa Kadosh Baruch Hu a far posare il suo spirito di profezia su un pagano. Si parla di questo nelle fonti. Il senso più semplice della cosa è che i maestri dicono HaKadosh Baruch Hu ha dato anche agli idolatri un profeta, perché non sia poi detto, ah, gli ebrei hanno i profeti, allora sanno quello che vuole Dio. Noi non abbiamo nessun profeta, allora non siamo tenuti a seguire le istruzioni divine. No, invece vi do un profeta. C'è scritto che era di un profeta di un livello molto elevato, simile al livello di profezia di Moshe Rabbeinu addirittura. Così c'è scritto di Bilam, però non è questo il tema. In ogni caso c'era questo profeta. Allora dice, se la sua forza di Moshe è nella bocca, cioè il Signore sente le sue preghiere, allora abbiamo uno che potrebbe contrastare questa cosa, e ora lo assumo, gli do una bella somma e pago i suoi servizi. Il suo servizio sarà di maledire il popolo di Israele. Con le mani e con le armi, con le battaglie non ci riusciremo. Se la loro forza è questa, allora cerchiamo di combattere questa forza qui. Questa è la storia che è accaduta. Allora la parasha descrive tutta questa cosa e vi invito anche a leggerla, perché è una parasha che entra molto nel dettaglio dei dialoghi e di tutte le situazioni di questa storia specifica. E Bilam inizialmente rifiuta, poi acconsente, eccetera, eccetera. Va a fare a svolgere questo servizio. Alla fine, dalla bocca di Bilam, invece di maledizioni, escono fuori le più belle benedizioni che abbiamo mai avuto da qualsiasi profeta o tzaddico. Cioè, alla fine Bilam dice, io non posso dire altro che quello che mi viene messo in bocca, se devo dire la profezia. La profezia non è mia, la profezia viene trasmessa attraverso di me, e alla fine non è riuscito a farla, diciamo così, applicare nella maniera che lui avrebbe voluto. Però c'è scritto che Balak era un grande sonè significa nemico, ma forse Bilam era peggio, e poi vedremo perché. Ma prima di questo, quello che effettivamente vorremmo cercare di capire, dicevo prima con Daniel, il concetto dei nomi, perché è stato chiamato il nome della parasha Balak? Balak è un antisemita così forte, perché dedicargli una parasha? Va bene, la storia va raccontata, ma potremmo trovare un altro nome forse per la parasha. I nomi sono importanti. Da dove sappiamo che i nomi sono importanti? Esiste un'alaha. L'alaha dice: non è bene dare un nome a un proprio figlio che ricorda una persona malvagia. Il nome di una persona, di un malvagio. È meglio evitare dare il nome di un malvagio ad una persona. Perché? C'è scritto in un versetto di Mishlei, dei proverbi del re Shlomo Amelech, Shlomo Salomone: Zecher tzadik livracha. Il ricordo di uno tzaddik, di un giusto, risulta in una benedizione. Livracha, risulta in una benedizione. Non significa, come sempre pensiamo, Zecher tzaddik livracha, che il suo ricordo sia benedetto. Significa invece che ricordare il tzaddik ci porta a benedizione. Zichrono livracha significa in realtà che il suo ricordo sia benedizione per noi. E il versetto di Salomone che dice Zecher tzadik livracha e contrappone il nome del Rasha. Veshem reshaim yirkav, e il nome dei malvagi marcisca. Cosa significa che il nome debba marcire? Allora il Rashi spiega: marcire è come una cosa che non viene usata, come anche la ruggine che appare quando non si usa un oggetto metallico. Cosa succede? Diventa arrugginito. Allora dice: il nome del Rasha dovrebbe diventare arrugginito, non dovrebbe essere usato, non dovrebbe essere ricordato, non dovrebbe essere nominato su un'altra persona ancora. Oppure c'è anche un altro aspetto che nei maestri Rishonim, Rabbeinu Hananel, un altro grande commentatore, dice: il nome non andrebbe usato, appunto applicandolo ad un'altra persona, perché potrebbe essere potrebbe fargli mancare il successo a quella persona, quando porta il nome di un Rasha, di un malvagio. Allora vediamo un attimino, questa è una cosa molto diffusa anche come pensiero generale, no? Non voglio dare un nome, spesso la gente chiama i rabbini prima di dare un nome, questo nome fa bene, però fa male, eccetera. Un sacco di rabbini sfondati anche dopo la guerra e portano il nome d'Adolfo, sì. Tanti. Allora ora vediamo come effettivamente si applica questa cosa e fino a che punto. Effettivamente si fa questo collegamento tra il nome di un malvagio e il comportamento eventuale di una persona nominata con quel nome, fino al punto che uno dei maestri delle ultime generazioni, il Chatam Sofer, Rabbi Moshe Sofer, scrive: Korach, quello che ha ribellato contro Moshe e Aaron, che abbiamo letto due settimane fa la parasha, la moglie, la moglie pure, che lui in... Anche sì, la moglie, bravissimo, ci sono i Midrashim che parlano della moglie che lo aveva incitato, eccetera. Il Chatam Sofer scrive: Korach è finito male perché portava il nome di uno dei capi di Esav. Se noi andiamo a vedere nella parasha di Chayei Sarah, credo, alla fine di Chayei Sarah, dove si fa tutta la lista dei capi che venivano fuori dalla tribù che era stata iniziata da Esav, Alufim, si chiamano generali, capi, uno di questi si chiama Aluf Korach. Allora dice: non avrebbero dovuto dare il nome Korach a questa persona, che poi generazioni dopo era Korach quello più conosciuto, e lo lega a questa cosa. La Gemara racconta che tre maestri una volta andarono a fare un viaggio e rimasero la notte a pernottare in un albergo. Rabbi Meir, Rabbi Uda e Rabbi Yosef. sono andati, questo viaggio era un viaggio che aveva come fine la raccolta fondi per aiutare una certa situazione di difficoltà, di poveri di una certa chila, e appunto, come dicevo, si fermarono in questo alberghetto, e all'epoca non c'era la cassaforte in stanza, si usava che si dava al proprietario, al titolare, e lui salvaguardava le cose preziose delle persone. Allora Rabbi Yehuda e Rabbi Yosè diedero il loro portafoglio, come era l'uso, al titolare. Per favore, ce lo metti da parte fino a domani. Rabbi Meir disse: aspetta, dimmi come ti chiami. Gli ha detto: mi chiamo Kidor. Kidor. Hai capito cosa significa Kidor? Ha intuito. Comunque Rabbi Meir ha detto: me lo tengo io il mio portafoglio. Ok. Loro hanno guardato così, cosa c'entra, cosa. La mattina dopo arrivano, ok, qui e lì. Voi chi siete? Non vi conosco. Ma certo. La BMIR è rimasto l'unico con i soldi in tasca. Allora mi ha detto: come hai fatto a sapere? Ha detto qua. Ce l'hai detto. Perché non ce l'hai detto? Quando lui ha detto Kidor, mi ha ricordato un versetto della Torah. Kidor è una parola, però nella Torah è scritto due parole. Chi, poiché, dor, tahapuchot hemma, è scritto nella parasha di Asino, verso la fine della Torah. Chi dor tahapuchot hemma, poiché si tratta di una generazione di situazioni capovolte, cioè il bene è visto come bene, ma in realtà è male, e viceversa. Quindi quando lui ha detto Kidor, mi ha ricordato questo versetto, che quello che sembra una maniera potrebbe essere diversa, e ho deciso di non dargli la fiducia. Però, in realtà, nell'Alaha, così come è stata decisa nei poskim, nei decisori di Alaha, non c'è scritto che è vietato dare un nome che potrebbe ricordare, per esempio ci sono altri nomi come Eliezer. Eliezer, chi era Eliezer, vi ricordate? Aiutante. Aiutante di chi? Di Isacco. Del padre di Avraham Avinu, era il servo più importante, il capo, diciamo, del capo gabinetto di Avraham Avinu. Eliezer voleva che Yitzhak, il figlio di Avraham, sposasse la sua figlia. Lui aveva una figlia e avrebbe voluto che Yitzhak avesse sposato la sua figlia. Avraham ha detto ad Eliezer: vai alla mia terra natia e trova una moglie per mio figlio. Scusa, c'è mia figlia. Avraham ha detto: tu vieni da Kenan. Kenan è il discendente di Noè, il figlio di Ham, che era stato maledetto da Noach, che era quello che si era comportato male. Dei tre figli di Noach, Ham è stato quello che si era comportato male con il padre, quando il padre si era ubriacato dopo il diluvio. Se vi ricordate la storia, oggi citiamo tante storie. Allora Avraham ha detto: tu sei il figlio di un maledetto, non voglio che mio figlio sposa la tua figlia. Beh, ne sarebbe un carino. Ok, però quando si parla di sposare, ora... più carino o meno carino, però vuoi quello che vuoi. Certo. No, non è esplicito sulla Torah. Scusa, solo un secondo, concludo questo pensiero e poi sento la tua domanda. Quindi il nome Eliezer, però... di un maledetto, tra virgolette, non è vietato dare il nome Eliezer. Chi altro ha dato il nome Eliezer? Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu ha dato al suo figlio il nome Eliezer. O ci sono altri nomi come Ishmael. Ishmael era il nome del primo figlio di Avraham, il figlio di Avraham con Agar, non con Sarah. E Ishmael era, in teoria, un malvagio. Uno che non ha seguito le orme del padre. Perché dare il nome Ishmael? Invece molti, anche Chachamim troviamo nella Gemara, Rabbi Ishmael ben Rabbi Yosè, diversi con il nome Ishmael. Allora abbiamo Eliezer, abbiamo Ishmael, abbiamo Hadar, c'è un altro nome, Hadar, che era uno dei malvagi legati ad Esav. Anche lì troviamo che si dà il nome Hadar. Allora, si può o non si può? Come funziona? il nocciolo dell'idea è che il nome che ha un significato, che può essere un significato positivo, se tu lo dai intenzionato a quel significato lì, non c'è nessun problema. Se lo dai per dare il nome, ricordare quel malvagio, allora non lo dare. Quindi dipende molto dalla tua intenzione, non è solamente una formula magica. Un nome, te lo applico e ti succede chissà che cosa. No, non funziona così. E come lo dai? Allora, se è un nome come Ishmael, Ishmael ha un significato bellissimo. Ishmael, il Signore ti ascolti. Eliezer, il Signore ti aiuta. Eliezer, Signore aiuta. Se c'è un significato che ha un senso e ha poi un senso anche molto bello, allora si applica la regola, segui l'intenzione. Se è un nome di un malvagio che però non ha neanche un senso positivo e bello, diciamo che uno augurerebbe a qualcuno a cui dà il nome, allora va evitato. Ma non che è un divieto assoluto, non si possono dare nomi dei malvagi, dipende dal contesto. Come tante cose nella vita e nella halakha, dipende dal contesto. Però per ciò che riguarda Balak, non è che troviamo un significato bello in questo nome, e ci chiediamo perché nominare una parasha al nome di Balak. Allora voglio sentire la domanda di Mattia, poi proseguiamo. Io so, cioè che poi ho visto, diciamo, no? Che in base al nome che viene dato, diciamo, tra virgolette, ti viene associato a un destino. Che spesso ho visto che magari delle persone che disgraziatamente stavano male, di conseguenza hanno cambiato il nome, o il primo nome o il nome, il secondo nome. Sì, volevo affrontare anche questa cosa, sì. Però la mia domanda è, in base a che cosa allora di conseguenza? Cioè, come puoi sapere se anche il secondo nome che tu gli andrai a mettere a questa persona non faccia peggio oppure... Sì. Allora, in questo riguardo, cioè... Quanto può incidere il nome sul destino della persona? No. Tipo allegria, gioia. Allora, guarda, la domanda generale è quanto può incidere il nome sul destino della persona? Ok, prima di parlare del cambio della giunta in caso che servisse. Già dalla partenza. Se non è un nome che proprio esprime un concetto negativo, ok? E se non è un nome che in maniera esclusiva ricorda un malvagio o un comportamento negativo, allora a quel punto si applica il discorso del contesto. Contesto. Genitori, faccio un esempio, genitori che stanno per... dare un nome a un figlio o una figlia appena nata. Devono stare con la paura. A noi piacerebbe questo nome, ma chissà cosa porta questo nome, chissà che destino sarà deciso per questo bambino. Errore grandissimo. Non è così. Poi invece ci sono proprio dei, non dico dei rabbini, però dicono proprio alcuni nomi li sconsigliano proprio. Ascolta. Tipo Sofia. Ruba. Che problema c'è? Sofia. Che senza animo, senza... No, senza scelta. Che è in ebraico, la Sofia? Fine. No, però comunque sì, quando lo dice è fine di... Sofia. Sofia. Allora, siccome stasera il microfono ce l'ho io, vi dico il mio pensiero. Poi chiunque vuole dirà il suo. Se i genitori pensano così, e lo dico a tanti genitori che me lo chiedono, quindi lo dico anche in maniera pratica, non solamente in teoria, è un grande errore. Di nuovo, un nome che non è esplicitamente malvagio e non può essere neanche interpretato in bene come Ishmael, che era un malvagio Ishmael, ma ci sono tanti Chachamim Ishmael perché ha un senso bello, o Eliezer, no? Questo è un esempio proprio ottimo. Se non è così, un nome negativo proprio, dipende tutto dalla tua intenzione e dal contesto. Ripeto, se il contesto è una famiglia in cui nasce qualcuno e si vuole dare un nome con che tipo di sentimento? Di amore, di affetto, di bene. Si vuole ricordare il nome di qualcuno di famiglia, che un nonno che è mancato o che non è mancato, o un zio che è stato molto amato, quello che sia. In tutti questi casi non c'è dubbio che si trasmette un'energia positiva attraverso questo nome. Ora, quando esiste un'usanza, che tu ricordavi Mattia, quando una persona sta male, quando qualcuno sta davvero tanto male, io non sapevo stare. Esiste un'usanza di aggiungere un nome. Ma non di cambiarlo. No, di aggiungere. Molto spesso si aggiunge più che cambiare. Io ho visto perché ho visto proprio di persona, ho assistito a questa cosa che appunto una su due persone che ho visto, una è stata proprio cambiato. Ok, a volte si fa così. È possibile fare in due maniere. Però il punto di questa cosa cos'è? Normalmente, in casi di questo tipo, e tu chiedi giustamente come fai a sapere se il secondo nome non è... In casi di questo tipo, il secondo nome che si dà, o cambia o si aggiunge quello che sia, è un nome che denota il concetto di vita o di guarigione, come se si dà il nome Rafael. Rafael significa Dio ti guarisca. Chaim per un maschio, Chaya per una femmina, vita. Cioè si dà un nome che indica il concetto. Normalmente quando si dà un nome per un motivo di questo tipo, si dà un nome che appunto è nel contesto della guarigione o della vita, eccetera. Quindi questo è il senso di quella cosa. Però tornando al concetto del destino del nome... Alcuni dicono non dare il nome, per esempio, Miriam. Il nome Sofia non la considero proprio valida la cosa, perché non è anche un nome ebraico, allora non è... No, è molto diffusa, è diventata una moda. Per esempio, molti dicono Miriam, non si deve dare il nome Miriam, perché Miriam significa amarezza. Acque amare o situazione amara. Allora scusami, Miriam Nevià, la profetessa Miriam che ha vissuto più di 120 anni, non va abbastanza bene? Per dire, io non condivido assolutamente questo pensiero, io ve lo dico molto sinceramente, la considero un trend, una moda, che alcuni, sai, quando c'è un trend tu la vuoi cavalcare. Alcuni lo cavalcano e diventa quasi un business, tra virgolette, questa cosa di consigliare sui nomi e far cambiare nomi e far togliere nomi e rimettere altri. Tu sei padrone del tuo destino, più del tuo nome. Il tuo nome è vero che è un canale della Berakha di HaKadosh Baruch Hu, ma non significa che se tu ti comporti in qualsiasi maniera che vuoi e poi dici tanto ho un nome... che non c'entra niente, cioè voglio dire, non ci, a parte che non è una garanzia, ma anche non ha molto senso attribuire al nome questo tipo di importanza. Di nuovo, è molto importante il nome, lo vediamo, uno come Rabbi Meir dal nome come poteva capire tutto, però questo non significa che una persona deve impazzire, come dice Mattia, chissà il mio nome, il nome è stato dato da qualcuno che ti vuole bene, che ti ama, che ricorda qualcosa di speciale, che comunque, almeno in casi, non dico che è impossibile, però in casi estremi o... Vabbè, ma quello è, diciamo, senza... Ma è normale, nel caso normale non è un problema. Com'è? Dico, senza dubbio, è la questione che il genitore dia un nome a proprio figlio, chi che esatto. Sia. Esatto, ma poi quando si cambia il nome, non è che si sta dicendo gli è arrivato questo male perché aveva questo nome, ora lo dobbiamo cambiare. Non è quello il punto. Il punto è, ora lui ha bisogno di una particolare berakha, forse il nome ulteriore o cambiato può essere un'ulteriore fonte di berakha. Ma non è per dire, guarda che gli hanno dato il nome sbagliato, mannaggia, avesse dato l'altro nome non sarebbe stato male. Non è questo il senso. Capito? Posso fare una domanda? Sì. Il concetto del nome, cioè... è una convenzione, tra virgolette, umana, nel senso che è nata perché per riconoscere le cose all'interno del mondo. Oh, però questo perché, è un ottimo punto. Cioè, perché è una cosa che si tramuta da un punto di vista religioso piuttosto che... Ok. Adesso hai toccato un punto molto importante, che non pensavo di parlare di questo, però vale la pena un attimino approfondire questo. Cambiamo lezione. Allora, Ariel dice: il nome a cosa serve? A me non serve il mio nome, serve a te per chiamarmi. Nel senso che è uno strumento umano per dare identità. È un mezzo, uno strumento per dare identità, per indicare, no? Per definire una cosa. Per definire, per aiutare a noi a definire, ad indicare, ad identificare, eccetera. Ariel dice, allora, qual è il senso religioso, diciamo, spirituale di questa cosa? Cosa c'entra? È semplicemente un mezzo, giusto? Mm-hmm. Ok. Allora, adesso parliamo un po' di Kabbalah. Va bene? Ok, noi abbiamo studiato nella Mishnah, la Mishnah è il trattato di Avot, perché Avot è molto famoso, le massime dei padri. C'è scritto Ba'asara ma'amarot nivraha olam, il mondo è stato creato attraverso 10 frasi. Asara ma'amarot, 10 frasi pronunciate. Cosa significa? Significa molto semplicemente, se tu apri il libro di Bereshit, proprio all'inizio dove si descrive la creazione, com'è che è descritta la creazione? La creazione è descritta come qualcosa che il Signore, HaKadosh Baruch Hu, parla e si realizza ciò che lui ha espresso, tra virgolette, pronunciando la parola. Perché si usa il termine Vayomer. Vayomer Elohim Yehi Or. Vayehi Or, il Signore disse ci sia luce, e fu luce, e luce fu. Ogni cosa della creazione è legata ad un'espressione di parola, di frase pronunciata. Allora la Mishnah vi dice, il mondo è stato creato, quante frasi sono? Sono 10 frasi, che tra l'altro si legano alle 10 comandamenti, si legano a livello più spirituale, cabalistico, alle 10 sefirot, 10 sfere superiori. Ma cosa significa che crea con la parola? Allora la Kabbalah spiega che l'essere umano è creato, come dice la Torah, in immagine e somiglianza del divino. Immagine e somiglianza del divino significa che in qualche maniera la struttura, sia psicologica che anche fisica, della persona, dell'essere umano, in qualche maniera rispecchia la struttura, tra virgolette, del divino. Ok? Ora, noi con la nostra parola non possiamo creare. La nostra parola può creare, in teoria, o nel nostro pensiero, nell'immaginazione, o nella nostra parola possiamo creare tutto un intero mondo, ma poi concretamente, se non si mette in mezzo anche l'azione, l'atto, non è nulla di concreto. Però, comunque, però comunque la parola è importante. Beh, non penso sia più importante. Per me è più importante dell'atto. No, secondo me no. Tu no. Con la parola stai creando una realtà. Sì, ma dal punto di vista della concretezza. Sì, poi però, se tu non la metti in pratica, okay, però quando non è quello che vuoi. Stiamo parlando di un'altra cosa. Sì, stiamo parlando di un'altra cosa. No, è come se dicevo, per me contano i fatti e non le parole. Bravo, dal punto di vista della concretezza, la parola non arriva alla concretezza, se non viene presa la parola e messa in atto, chiaramente. Ora, noi possiamo creare un mondo con la nostra parola che però rimane un mondo teorico. HaKadosh Baruch Hu con la sua parola si realizza davvero. Come se tu dessi un comando a un programma al tuo telefonino, quello che è, no? Che oggi si può anche attivare, si possono attivare delle cose con la parola. Quindi oggi abbiamo un esempio più concreto di questa cosa. Negli anni recenti, tu con la tua parola puoi, tra virgolette, mettere in atto dei processi. Ok? Applichiamo questo alla creazione, significa che HaKadosh Baruch Hu Vayomer parla, e di conseguenza questa dicitura, questa pronuncia, si attiva una serie di processi che risulta in qualcosa di concreto. Perché ovviamente fa azioni in base a quello che ha detto. Arriva all'azione, poi bisogna capire tutto il processo, però adesso non entriamo in tutto il processo. Come concetto, dalla parola si arriva al concreto, ok? Ora la Kabbalah spiega la seguente cosa. In queste 10 frasi, che sono appunto relative alla creazione, ci sono delle diciture molto generiche e generali. Cioè si parla delle erbe, degli animali, degli esseri viventi, dei volatili, ma non si entra nello specifico dei miliardi di specie vegetali, animali, eccetera, che esistono nell'universo. Io sto parlando solo di questo mondo, poi parliamo di Io quello lo fa Adamo, no? No. Aspetta. One second. Tu sei avanti, one moment. C'è scritto nella Kabbalah che le lettere che formano le parole di queste 10 frasi, a loro volta, le stesse lettere, creano diverse combinazioni che creano altre parole ancora. E ci stanno tutte le lettere dell'alefbet nei 10 detti, nei 10 frasi. Quindi ci sono tutte le possibili immaginabili combinazioni di lettere per formare tutte le possibili immaginabili parole che rappresentano ogni tipo di esistenza, ogni tipo di vita, ogni tipo di specie, di creatura, di cosa creata. A cosa servono queste lettere e queste parole? Cosa rappresenterebbero? Queste lettere e queste parole rappresenterebbero il canale di energia divina per l'esistenza di quella cosa specifica. Significa, se esiste cavallo, come si dice cavallo in ebraico? Sus. Come si scrive Sus? Samech. Vav Samech. Samech, Vav Samech. Significa, se tu vedi un cavallo, quello che in realtà stai vedendo, anche se non lo vedi con gli occhi, a meno che stai in un certo livello, poi vengo io da te a far lezione, vedi le lettere Samech Vav Samech che formano un certo tipo di canale di energia divina che si esprime in una determinata maniera che viene fuori un cavallo. E qui arrivo a quello che diceva Ruben, che c'è scritto alla fine della creazione, che Adam, il primo uomo, diede dei nomi a tutte le creature. Ma il versetto della Torah esprime questa cosa in maniera strana. Perché la Torah dice, Adam diede dei nomi, nominò le creature, e i nomi furono quelli. Che significa i nomi furono quelli? Ha detto, se li ha nominati, allora è chiaro che i nomi furono quelli. La Torah sta alludendo ad un concetto più profondo. Come se fosse... Sta dicendo che Adam riuscì a vedere l'energia, capire quali sono le lettere, e non fu lui ad inventare il nome come una convenzione per poter identificare meglio, ma ha tirato fuori quello che già c'era. In altre parole, Adam era a livello morale e spirituale tale da poter vedere in qualche maniera l'energia divina che dà vita all'esistenza, non solamente vedere il prodotto finale, ma vedere anche quello che c'è dietro. E allora lui, quando vide il Sus, vide il Samech Vav Samech e disse, questo è Sus. E la Torah dice, e il nome fu in realtà quello. Allora, tornando alla domanda di Ariel, e questo ovviamente fatto in maniera molto breve, possiamo anche approfondire se Dio vuole. A livello ebraico, cabalistico, profondo, il nome non è una convenzione. Il nome non è solamente... come usano il termine nella filosofia ebraica, nella letteratura della filosofia ebraica, Shem Heskemi, un nome semplicemente sul quale ci si mette d'accordo. Questo lo chiamiamo tavolo? Chiamiamolo tavolo. Quello lo chiamiamo sedia. In teoria, gli antichi greci avrebbero potuto dire no, questo si chiama sedia, quello si chiama tavolo. Per dire, alla fonte, no? È un nome sul quale ci si mette d'accordo, come dicevi tu, per indicare qualcosa di specifico. Nella Torah i nomi invece non sono convenzioni, non sono solamente per comodità, sono qualcosa che rappresenta l'essenza di quella creatura specifica che viene chiamata con quel nome. Però aspetti, scusi, come si fa a definire una votazione su magari un oggetto materiale? Perché no? Già all'inizio, cioè che il nome c'è stato dato, forse prima della creazione già c'era il nome. Beh, penso di sì. O con la creazione. Volevo condividere con voi questo, sì, pensiero, si collega, sì, una, sì, cosa che ho studiato all'università, c'è, cioè, questo autore che è Chomsky, che praticamente parla della grammatica generativa, e lui diceva che ogni popolo ha una lingua, e a seconda della lingua il popolo si comporta in una determinata maniera. Cioè lui diceva, se tu prendi ad esempio gli anglosassoni, cioè l'America e Inghilterra, non c'hanno una distinzione tra maschio e femmine perché lì c'è il termine neutro, ok? Oppure prendeva in considerazione la lingua ebraica, che diceva ad esempio una lingua ebraica manca il verbo avere, ok? Cioè qui nella lingua c'è tutta l'essenza della... Bisogna capire cosa precede. No, il comportamento o la lingua? No, qual la è lingua quello precede. Come fai a sapere? Lui dice, no, ovviamente... No, vabbè. Sono due posizioni. Nel, sì, senso, sì. Perché può darsi pure che la lingua è sviluppata in base al comportamento, certo, piuttosto che il contrario. Però sì, è molto interessante. Però una cosa non, sì, è chiara di questo discorso, nel senso che Adam vide quei nomi. Cioè, come fa? Se io devo dare il nome a qualcosa, io non vedo l'effettivo nome. Tu sei limitato. Appunto, quindi per chi mi dice che quel nome è l'effettivo nome di quella cosa, di quella persona. Allora, tu stai parlando adesso nel contesto di dare il nome ad una persona. Persona, giusto? Cosa, qualunque cosa. Nel senso, se prima quelle cose, animali o che sia, avevano un nome perché lui vedeva il nome, cioè adesso una qualsiasi persona, allora, ai giorni nostri. Effettivamente. State mezzo alle amiche dal Babel. Effettivamente questo, cioè, in effetti, questo concetto è valido nella Lashon HaKodesh, nella lingua sacra. Quando tu vuoi inventare un nuovo nome, devi usare gli strumenti che hai. Effettivamente, quando viene fuori anche molte cose dell'ebraico moderno, non sono rapportabili a questo discorso qui. Giustamente, proprio per questo. Diventano come qualsiasi altra lingua, tra virgolette. Cioè, un nome, come ho detto prima, Heskemi, sul quale ci si mette d'accordo. Però a quel punto il nome che tu dai a una persona non ha più lo stesso significato che poteva avere prima. Qui torno a quello che dicevo prima. Se parli del nome di un oggetto, allora è come qualsiasi altra cosa. Se tu parli di dare un nome a una persona, allora è valido tutto il discorso di prima, il contesto. In base al... cioè, vi dico un'altra cosa. C'è scritto nella fonte che si chiama Kitvei Arizal. Kitvei Arizal sono delle fonti scritte, non dall'Arizal, che era uno dei massimi cabalisti, ma riportano i suoi discorsi. E sono scritte da anche a sua volta un suo allievo, ma anche lui un grandissimo maestro, Rabbi Chaim Vital, che si chiamava Rabbi Chaim Vital Calabrese. E lì è scritto che quando i genitori devono dare il nome a un figlio, HaKadosh Baruch Hu gli concede ai genitori, e mi sembra che lo chiama Nevuaktana, un piccolo livello di profezia, una piccola profezia. Come dire? Che pensano fuori un attimo agli schemi. Forse anche inconsciamente, sicuramente inconsciamente, sì, sì, c'è qualcosa, che li spinge a una forza, no? Qualcosa che gli spinge verso un determinato nome. Che questa è come una berachà, allora, diciamo, è come un dono. Già sa tutto. Che sa tutto è sicuro, però anche alcune decisioni ce le dà in mano a noi. Sì. Certo. Cos'è tutto il concetto del libero arbitrio? Io sono mio dubbio. Dipende su cosa, chiaramente. Esatto, dipende sul contesto. Di nuovo siamo al contesto. Scusa, era proprio, non ti interrompo più. No, interrompi adesso pure. Hai citato... Quando dici cose valide. Quindi buona volta. No. Scherzi. No, prima hai citato l'Arizal, ok? C'è una frase dell'Arizal che è proprio sui nomi, che dice che non c'è cosa più grave che dare un soprannome a una persona. In realtà la Gemara dice questo. Sì, è vero. La Gemara lo dice. Si parla di questo anche nelle fonti alachiche. Cioè, soprannome si intende... Si intende un denigratorio? Sì, denigratorio. Se lui si chiama Daniel, lo chiamo Dani... No, si intende denigratorio. Un denigratorio. Sì. Poi bisogna fare uno studio sui soprannomi a Roma e questo per un'altra sera. No, la domanda è, ma se il nome è destino, il soprannome... Non credo che abbia la stessa importanza del nome stesso. Non credo. Dico che se il nome è il destino, quando hai un soprannome. È per questo che è peccato. Esatto. Non credo che abbia la stessa importanza. Però. Però lo sapevo pure io, eh. Come? Questa cosa che del soprannome? C'è a Roma che ogni famiglia c'ha un soprannome. Sì, famiglie, persone. Beh, questo è già uno studio a parte. Va approfondita la cosa. Però torniamo al punto iniziale, che era il nome della parasha che viene nominata per un malvagio. Sì, infatti. Porto Torello. Cos'è che si trasmette col dare il nome di una parasha in questo senso? Allora, troviamo una cosa simile. Esiste una halakha che è bene non nominare delle cose negative, anche delle idolatrie. Perché dovrei nominare un'idolatria? Perché, per esempio, se devo andare da punto A a punto B e in mezzo c'è un luogo in cui si professa l'idolatria, che per noi potrebbe essere anche una chiesa, che per noi è vietato come idolatria, per noi, allora l'Alaha dice non dare indicazioni in base a dove si trova la chiesa. Vedi la chiesa, vai a destra. Cerca un altro modo di dare l'indicazione, per non nominare qualcosa che per noi è vietato. Ah, ma dai, questa è la prima volta. Sì. E questo è anche il motivo per cui ha chiamato Simcha Marinella. No? Bravo, certo. Ora la cosa strana è che nella Torah, quando si parla del mare che si apre, eccetera, nella parasha di Beshalach, che c'è scritto Lifnei Baal Zephon, dove si trovavano gli ebrei? Davanti a Baal Zephon. Cos'è Baal Zephon? È un luogo di idolatria. Perché viene menzionato? Perché non trovare un altro modo, appunto come dicevo? Allora i maestri spiegano, lì c'è un motivo specifico. Lì viene nominata l'idolatria per indicare la grandezza di Akadosh Baruch Hu. Cosa c'entra? Gli ebrei sono usciti dal mare dinanzi fronte a Baal Zephon, come per dire agli egiziani, guardate i vostri dei pagani a cosa servono. A nulla. Ad accendicazione. Anche con la presenza del tuo Dio pagano non è servito a nulla. Sono passati nel mare, si sono salvati, eccetera, eccetera. Cioè per nominarli per un motivo contrario rispetto a un nominarli così che potrebbe essere considerato come un dare importanza, rispetto, eccetera, diventa l'opposto. Allora significa che forse possiamo applicare la cosa, il Rebbe lo dice in un suo discorso, si può applicare la cosa alla parasha di Balak. La parasha viene chiamata Balak per indicare che a volte le cose buone nella vita possono passare attraverso delle situazioni difficili o attraverso degli incontri con persone addirittura malvagie. Perché cosa esce fuori da questa storia di Balak? Che lui interpella Bilam, eccetera, eccetera. Cosa viene fuori dalle profezie di Bilam? Le più grandi benedizioni, ma non solo. È l'unico posto nella Torah dove in maniera quasi esplicita sono alluse le profezie riguardo alla venuta del Mashiach, riguardo alla redenzione finale. Allora il messaggio che si vuole trasmettere, usando comunque il nome di Balak, è che forse l'incontro con un malvagio, prima di lamentarti, forse vedrai alla fine che sarà la fonte o qualcosa che ti porterà a un bene, ed è molto ricorrente. Bravissimo, volevo dire proprio questo. Abbiamo visto tante volte, abbiamo visto a Purim, abbiamo visto in varie situazioni, dove comunque giustamente il punto ricorrente qual è? Che tu cresci dall'avversità, cresci quando vieni messo sotto pressione, non quando ti va tutto liscio e non quando sei nato con tutto già pronto davanti a te. C'è scritto nel questa cosa che vi dicevo del nome della Vodazara, che viene chiamata nella Torah, nella Parashà di Beshalach, nel mare che si apre, viene citato questo, lo dicono il commento del Tosfot sul Talmud, esprimono proprio questo pensiero qui. Dicono, a te come persona è vietato dare indicazioni in base ad un'idolatria o una cosa negativa. Ma da Kadosh Baruch Hu è permesso nella Torah farlo, perché? Perché lo fa proprio per denigrare l'importanza di quella cosa, come dicevo prima. E quindi la stessa idea la possiamo applicare a qualcosa che adesso segneremo la settimana prossima, sarà martedì il digiuno del 17 di Tammuz, che inizia tutto il periodo di lutto, che poi ci porta al grave lutto di Tisha B'Av, la distruzione. E c'è nel Talmud una storia molto particolare, dove si descrive che alcuni maestri si trovavano in prossimità di Yerushalayim, dopo la distruzione. Tra questi maestri c'era Rabbi Akiva, famoso maestro della Mishnah. E quando arrivarono sempre più vicini al luogo del Monte del Tempio, dove si vedevano ancora le rovine della distruzione dai romani, a vedere tutto questo, i maestri si sono proprio messi a piangere. Ad un tratto guardano il loro compagno Rabbi Akiva e vedono che sorride. E gli chiedono a Rabbi Akiva: perché ridi? E lui risponde: perché voi piangete? Dice: come facciamo a non piangere? Vediamo che si realizzano tutte le profezie della distruzione, eccetera. Risorgeremo. Allora lui dice: se è stata realizzata questa profezia, significa che sarà realizzata la seguente profezia, il proseguo della profezia, e cioè il risorgimento, la geulah, la redenzione. Allora, come Adam, che vedeva non il sus ma le lettere, lui vedeva la distruzione, ma nella distruzione vedeva la rinascita. Allora forse il nome della parasha Balak è proprio questo, che il nome Balak è il nome di un malvagio, di un sonè, di un nemico, di un antisemita, eccetera, eccetera. Ma guarda dietro il nome, o guarda l'interno, dell'interiore del nome, e vedi colui che ha in qualche maniera è stato catalista, che è venuto fuori il profeta della redenzione di Israele, che tra l'altro un profeta che neanche voleva dire una cosa di questo genere, quindi proprio una trasformazione. In altre parole, non si sa mai. Un'altra cosa che possiamo trarre da qui, perché si affrontano tanti problemi nella vita, e spesso i problemi più grandi ovviamente sono quelli inaspettati. Per definizione, ti trovi davanti al problema inaspettato, ti trovi perso, ti trovi confuso. Non si sa mai che potrebbe essere proprio quel problema lì che fa scattare quella cosa che doveva essere fatta scattare per crescita, per cambiamento, per benedizione. Chissà. Dipende tutto da come interpreti il problema. Lo devi interpretare nella maniera giusta. E allo stesso tempo ti deve capitare nel periodo in cui tu stai, ti stai tra virgolette evolvendo, nel senso che stai migliorando, perché hai la stessa possibilità nel vedere la cosa, perché se ti dovesse succedere in un momento che magari per te già è un brutto periodo, tutto dipende anche dal contesto, eccetera, però... Ok, però giustamente siamo d'accordo che non si può mai sapere, non bisogna mai perdere la speranza, anzi può darsi che proprio quel problema lì che ti sembra proprio che non c'è assolutamente soluzione e anzi ti rovina, questa sia la svolta per la Berakha. Se da Balak è venuto fuori un Bilam che ha profetizzato la Geulah, allora può succedere tutto.